Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. C'è una specie di scoglio che ogni operazione di efficientamento edilizio in particolare deve superare, la valutazione iniziale, insomma quella con cui si stabilisce, facciamo il caso per esempio dei condomini, qual è lo stato di partenza e anche a che cosa si può puntare, a quali interventi, a quali obiettivi. Perché parlo di uno scoglio? Intanto perché è proprio un ostacolo psicologico, insomma spesso si è poco propensi a pagare per avere in mano un pezzo di carta, ma anche perché si pone con tutta evidenza un problema di conflitto di interessi se la valutazione sul cosa c'è da fare la affidiamo magari proprio all'azienda che poi potrebbe fare i lavori. Adicomsun lavora ormai da un po' su questo tema e siamo finalmente alla svolta. Proprio in questi giorni infatti diventano operativi i primi energy auditor di Adicomsun formati all'interno di un progetto che si chiama Enforce. Ebbene, di tutto questo parliamo con Riccardo Comini, che è segretario nazionale di Adicomsun proprio con delega all'energia. Buonasera Comini. Buonasera. Allora Comini, beh intanto diciamo così, avete appena completato la formazione dei primi auditor, parliamo di un master vero e proprio che entreranno in azione se non sbaglio a Bologna, mentre sono già partite diciamo le prossime infornate di consulenti, è così? Allora è così, partiamo da Bologna perché a Bologna abbiamo già formato, da Bologna chiaramente si intende tutta l'Emilia Romagna perché a Bologna si è già concluso il master, il primo master dove abbiamo formato 30 di questi professionisti. Mm-hmm. Siamo già in grado però di coprire a livello nazionale tutta l'Italia con dei professionisti senior. Ecco, perché questi appunto sono dei consulenti junior, chi sono questi ragazzi, questi giovani? Allora, quelli che noi formiamo sono giovani, chiediamo alle università e ai giovani neolaureati di partecipare a questo master, che è un master di 120 ore, quindi un master vero e proprio, dove vengono formati e introdotti quindi sul mercato del lavoro, quindi vengono proprio specializzati, questo perché c'è un problema spesso, come lei diceva, che è quello di pagare molto un pezzo di carta e che poi magari uno non sa che cosa farsene, o soprattutto della verifica di questo pezzo di carta. Questi giovani devono essere formati, quindi hanno una professionalità per emettere questo pezzo di carta. A fianco a questi giovani ci sono poi dei professionisti senior che sono in grado di affiancarli anche nel loro percorso formativo e quando qualche intervento, qualche studio è un po' più importante. Complicato, magari richiede una certa esperienza. Comunque esatto. Stiamo parlando fondamentalmente di giovani ingegneri, è corretto? Giovani ingegneri, neolaureati, esatto. Che cosa vanno a fare questi giovani ingegneri? Allora, questi giovani ingegneri sono il secondo step di un processo che inizialmente è totalmente gratuito per il consumatore. Il consumatore può, attraverso il numero verde 858 90 90 o attraverso il sito www.enforce-een.eu, fare autonomamente una diagnosi energetica del proprio immobile. Questa diagnosi chiaramente è una diagnosi molto approssimativa. Esatto, che è molto facile farlo, ho bisogno soltanto delle mie bollette del gas e dell'energia elettrica di un anno e di avere le dimensioni e la zona dove io abito, quindi se abito a Milano piuttosto che a Palermo. Uh-huh. E le dimensioni del mio appartamento, perché poi ho bisogno di capire quanto è grande il mio appartamento che, certo, vado a riscaldare. Da questa diagnosi mi viene subito dato un valore che mi dice: attenzione, tu hai questo tipo di problematiche, l'efficienza del tuo immobile può essere notevolmente migliorata, o se già sono efficiente mi dirà chiaramente che sono efficiente, certo, efficiente. Allo stesso tempo mi arrivano via email o telefonicamente tre nominativi di questi neolaureati, questi ingegneri che hanno già fatto il master con noi, che posso io chiamarli autonomamente, quindi non mi viene detto quale scegliere, io posso scegliere uno dei tre, certo, posso chiamarli tutti e tre e sentire chi è quello che mi ispira più fiducia tranquillamente, e non è il prezzo che fa la differenza. Ecco, il prezzo a proposito, diciamolo, va? Il prezzo è un prezzo stabilito, è un prezzo che noi stabiliamo, è un prezzo che oggi è un terzo a quello che è il prezzo di mercato e va per edifici fino a 1000 metri quadri calpestabili, sono 120 euro di quota fissa più 1 euro a metro quadro, quindi tiene conto delle dimensioni dell'immobile. Cosa prendono esattamente in esame? Allora, lo studio viene fatto, uno studio molto approfondito di tutta l'abitazione, quindi si fa un sopralluogo, i ragazzi valutano e studiano sia i consumi energetici, sia la qualità costruttiva dell'immobile, sia impiantistica dell'immobile, quindi vedono se gli impianti sono vecchi, prendono i dati della caldaia, prendono i dati anche degli infissi e poi elaborano una diagnosi dove dettagliatamente ci viene detto dove si può intervenire. Attenzione però, qual è l'aspetto che noi riteniamo fondamentale per questa operazione. Non tanto il costo, devo essere franco. Sì, è vero che è molto economico rispetto al prezzo di mercato, però ci sono due aspetti principali. Sì. La professionalità, perché spesso oggi purtroppo abbiamo il problema che molti si sono improvvisati. Ne abbiamo migliaia, per esempio in Lombardia abbiamo credo 7.000 persone che fanno le certificazioni energetiche, quando in grado di farle sono molto molto meno. Ecco, esatto, questo per dirne uno. È il primo problema. Mm-hmm. E non solo sui professionisti, ma anche sugli installatori, dove spesso viene consigliato l'apparecchio dove io ho una provvigione più alta. Provvigione più alta, invece... Esatto. O anche solo familiarità, a volte addirittura, anche solo familiarità. So come si monta, quindi vendo quello perché lo conosco. Farlo. Esatto. Quindi qui invece c'è l'aspetto principale di tutta l'attività, che è l'indipendenza, perché questi ingegneri, sia i senior che i junior, firmano con noi un gentleman agreement, quindi un accordo dove si impegnano a non avere nessun tipo di rapporto commerciale. Quindi non mi consiglieranno mai di cambiare gli infissi perché hanno una provvigione più alta sui vetri, non mi consiglieranno mai di cambiare la caldaia perché hanno una provvigione più alta sulla caldaia piuttosto che i vetri. Poi ci sarà un dialogo, quindi il consumatore gli dice: senta, io non posso permettermi di cambiare gli infissi a tutta casa, cosa posso fare intanto per intervenire? Benissimo, l'intervento più economico che fin da subito porta dei risultati potrebbe essere ad esempio cambiare la caldaia o installare delle valvole termostatiche. Quindi viene visto l'intervento, presentato l'intervento e soprattutto vengono ascoltate le esigenze del consumatore. Grazie Comini e buon lavoro. Grazie a voi. Bene, noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani, parleremo del 55% di detrazioni fiscali, di che cosa fare se i lavori di ristrutturazione si situano a cavallo tra il 2010 e il 2011. Buona serata.